Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi portiamo dalle parti di Brescia, dove sorge uno degli stabilimenti delle acciaierie Ori Marten, specializzate in acciai speciali per varie applicazioni, e dove si sta realizzando il primo esempio in Italia di utilizzo del calore recuperato dai fumi provenienti dal forno elettrico dell'acciaieria per produrre energia elettrica e per alimentare la rete di teleriscaldamento locale. Siamo in un ambito, quello del recupero del calore disperso nei processi industriali, che, come abbiamo anche già visto in altre circostanze, ha un potenziale molto elevato di risparmio energetico sia a livello nazionale che mondiale, ma che nonostante questo non è mai diventato la norma. Ne parliamo con Uggero De Miranda, che è vicepresidente di Ori Marten e responsabile dell'area ricerca e sviluppo. Buonasera De Miranda. Buonasera a lei. Allora, intanto parliamo di un progetto che ha delle caratteristiche di unicità, perlomeno a livello italiano, come dimostra il fatto che avete ottenuto dalla Commissione europea un cofinanziamento di 2,5 milioni per questa realizzazione all'interno del programma Pitagoras. Allora, De Miranda, ci descriva insomma l'operazione. Il nostro progetto prevede il recupero del calore dai fumi della produzione di acciaio al forno elettrico. Che, tanto per capirsi, escono a che temperatura dal forno? Abbiamo fumi che variano sui 400-500 gradi. Molto alta, quindi. Alta, quindi sicuramente un'opportunità da utilizzare, però con una serie di problematiche, perché questi fumi sono molto polverosi, attualmente vanno raffreddati prima di essere mandati ai filtri che trattengono le polveri. Nel nostro progetto invece questi fumi producono vapore, e col vapore dopo possiamo utilizzarlo per fini energetici. Quindi è quello che oggi dobbiamo raffreddare e buttare il calore in atmosfera, quindi tutto perso. Oggi lo recuperate. Verrà recuperato. E lo recuperate secondo due filoni distinti. Esatto, perché noi possiamo mandarlo in una turbina del tipo a fluido organico, che è un tipo di turbina adatto a queste applicazioni, perché funziona con temperature anche più basse delle normali turbine a vapore. E l'altra alternativa qual è? L'altra alternativa invece è cedere questo calore alla rete del teleriscaldamento che serve la città di Brescia. Ecco, perché una di queste due strade da sola non era sufficiente o non era abbastanza interessante? Ma che l'utilizzo per il teleriscaldamento è sicuramente, dal punto di vista dell'efficienza energetica, una via prioritaria. Il problema è che la rete di teleriscaldamento durante l'estate non ha fabbisogno, ha fabbisogni molto bassi. Per questo che abbiamo preferito abbinare alla cessione del calore alla rete di teleriscaldamento anche l'autoproduzione interna di energia elettrica, che sicuramente può essere... Che senz'altro vi fa comodo con dei forni elettrici per sciogliere l'acciaio, esatto. No? Ecco, quali sono i principali benefici che vi aspettate, se ce li può anche un po' quantificare proprio? Allora, l'investimento è un investimento importante dal punto di vista in assoluto, sono più di 12 milioni di euro, quindi sicuramente è un investimento importante. Il ritorno di questo investimento è comunque un ritorno molto lungo, tendente verso i 10 anni, molto lungo e poco appetibile. Il fatto di aver avuto un contributo invece anche dalla comunità europea ci consente di abbassare questo ritorno verso i 6 anni. Okay. Circa. Naturalmente quello che andrà al di là di questo ritorno è tutto invece un guadagno netto, certo. Guadagno netto, certo. E quindi in prospettiva questo è il vantaggio di tutta l'operazione. Ecco. Quindi comunque è difficile trovare delle condizioni adeguate, mi sembra di capire, per fare queste operazioni, considerato che voi avevate anche la fortuna di avere un impianto di teleriscaldamento che vi passava sotto i piedi e che non è cosa frequente. Allora, tecnicamente, come l'ho già detto, è stato necessario superare una serie di difficoltà, e questo è il motivo per cui del costo di questi impianti. Costo di questi impianti vuol dire appunto difficoltà a far partire queste iniziative se non sono supportate appunto da contributi o da un aiuto alle aziende dal punto di vista finanziario. tra l'altro è una filiera tutta italiana, lì voi avete tutta tecnologia italiana o sbaglio? Tutta tecnologia italiana, sia la parte di recupero strettamente il vapore che è Tenova, sia la produzione di energia elettrica tramite turbina che è la Turboden, che è un'altra azienda italiana, un'eccellenza nel suo business. Grazie Ugero De Miranda. Buonasera e grazie a lei. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.